sentire nelle storie avute o immaginate, oppure nei tuoi sogni le trovate. Un sapore antico, il gusto della storia, ritorna con l'amico la memoria. Poi sarà la vita a dirci se era un caso, oppure di una storia che è infinita. Correre è veloce nel tempo questa storia, poi torna con la voce, la memoria. Siamo venuti al mondo per dire come siamo, un piano, una chitarra e qualche idea. Viene nella vita, a volte da lontano, un amico a tenderti la mano. Sentire sul mio brano, Enrico, la chitarra, capire nelle note come narra. Di noi un menestrello col gusto dell'antico, cantare sulle note di un amico. Musica e racconti, qualcosa abbiamo dato, un giorno dirà il tempo cos'è stato. Un volo nei ricordi ci porterà lontano, con un brano a prenderci per mano.